Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Certo che un fallimento della Grecia non può farci piacere, ma gettare la croce solo sui tedeschi mi sembra ingiusto. Loro fanno di tutto per dimostrarsi storicamente antipatici, però i greci che fanno? Ci dimostrino che hanno coscienza e che sono consapevoli del pericolo che essi, per loro stessa responsabilità, stanno correndo. I tedeschi non paiono molto lungimiranti in questa loro durezza, magari spiegata poco e male all'esterno, ma non li si può obbligare a fare qualcosa che non vogliono. D'altronde sono soldi loro. E solo loro ci possono mettere il becco e non esiste alcun dovere di aiutare altri paesi in difficoltà se, come la Grecia ora, la causa di questa situazione è addebitabile solo a loro stessi e ai loro governanti. Non vorremmo mica utilizzare la politica che abbiamo utilizzato in Italia con Catania e Roma, con un versamento dei soldi statali a ripianare i bilanci di queste città. Con l'Europa ci vuole responsabilità, non assistenzialismo. Antonio Cagliari. Se non ricordo male, alla nascita dell'euro ci si è tappati il naso e si sono fatti entrare un po' tutti. Intendiamoci, noi compresi, con il nostro debito abnorme. Adesso i nodi stanno arrivando al pettine. Io credo che l'Europa o si mette in testa di salvare uno dopo l'altro gli stati che hanno dei problemi, oppure deve decidere di lasciarli andare alla deriva, uno dopo l'altro. Vorrei solo dire a tutti quelli che non sono d'accordo al salvataggio della Grecia, che dopo la Grecia, dopo il Portogallo, che ormai è stato preso di mira dalla speculazione, e dopo Spagna e Irlanda, toccherà a noi di essere cacciati dall'euro, con tutte le conseguenze del caso. Roberto. Il prodotto interno lordo della Grecia è circa il 2% di quello tedesco. Se la Germania dovesse pagare tutto, le costerebbe l'1% del suo PIL. Ma se questo dovesse riportare il cambio euro-dollaro sulla parità, di quanto aumenterebbe il PIL tedesco con il miglioramento delle esportazioni? Forse del 3-4%? Questo spiega le scelte. Il resto sono belle scuse e comunque vantaggi marginali e di lungo periodo, oltre che un monito per tutti gli altri. Luca. Tre considerazioni sulla questione greca. Da tempo percepisco una scarsa sensibilità italiana per il progetto Unione Europea, collegato ai regionalismi dilaganti e al discredito dell'adesione all'euro, cosa che avviene anche in altri stati. Gli italiani si scoprono improvvisamente rigorosi nei confronti della Grecia, in riferimento all'occultamento da parte dei politici greci di realtà di bilancio. I nostri politici si rivelano anche questa volta miopi e con poca memoria. Ci siamo dimenticati che siamo lo Stato che ha approvato la depenalizzazione del falso in bilancio? Credo sia indispensabile ricostruire un credo politico europeo, indispensabile progettare un'unità politica per non trovarsi in scacco a causa di elezioni regionali in Germania. Se fosse successo in Italia, che aggressioni avremmo avuto dai tedeschi? Incomincio a pensare che anche la nostra Italia potrebbe subire un declassamento di rating, con tutte le conseguenze che ne deriverebbero. Il mercato, gli speculatori, agiscono per assenza di chiarezza e comuni politiche. Pietro, provincia di Pordenone. L'euro è moneta comune di un tot di nazioni. Il mio semplice buonsenso mi suggerisce che, siccome una moneta è uno strumento di scambio su un mercato, l'euro, per avere un senso compiuto, dovrebbe essere la moneta di un tot di nazioni con medesime regole di mercato. Come può funzionare senza contraccolpi una moneta in un mercato in cui i contraenti hanno regole tra loro anche diversissime? Non avrebbe quindi avuto senso definire anche regole comuni cui obbligatoriamente attenersi per entrare nell'Euroclub, per avere non solo una moneta comune, ma anche un mercato comune? Con regole comuni, quindi uguali e ugualmente vincolati per le varie nazioni, non credete che i greci non avrebbero potuto, anzi dovuto, mettere in atto tutte quelle politiche folli che hanno causato il macello? I greci replicano di essere stati vittime di una speculazione nata a Manhattan. Può darsi, Ma le speculazioni credo si possano attuare con soggetti deboli e quindi più facilmente attaccabili. Penso che incolpare solo 4 possessori di hedge fund per la situazione della Grecia sarebbe come accusare lo specchio se guardandoci in esso vedessimo riflessa una brutta faccia. Questa considerazione mi nasce ascoltando chi sostiene non sia giusto che i tedeschi debbano pagare tasse per consentire ai greci di godersi la pensione 7 anni prima di loro. Diversi modelli di social welfare creano diversi costi e quindi diversi livelli di pressione fiscale e amenità varie che rendono molto disomogeneo lo scenario tra i vari europartner. Roberto. In merito alla crisi finanziaria greca, ritengo che sia giusto aiutarli, dividendo tra tutti i paesi europei l'onere di tirare fuori montagne di euro. Questo potrebbe evitare dei possibili contagi ad altri paesi più deboli. È pur vero che così facendo le regole di Maastricht scolpite nella pietra vanno a farsi benedire. Quindi mi chiedo, fa bene la Gran Bretagna a stare fuori da un'Unione Europea come questa? Questa Europa, alla fine, risulta un po' più uguale alla nostra Italietta e risolve i problemi seguendo le convenienze del momento anziché rispettare le regole che essa stessa ha scritto. Fabrizio, Milano. Caro Fabrizio, mi sembra naturale che la crisi della Grecia abbia innestato anche una discussione sulla moneta unica europea. Ma se guardiamo a quello che sta avvenendo, il problema non è quello di superare le regole di Maastricht, ma esattamente il contrario, cioè fare in modo che la Grecia possa, anche grazie agli aiuti esterni, avvicinarsi sempre più al rispetto di quelle regole. Certo, Atene non ha adottato negli ultimi anni quella disciplina di bilancio che altri paesi, tra cui l'Italia, hanno invece seguito e per cui hanno pagato un forte prezzo in termini di potenzialità di crescita. L'adozione della moneta unica ha portato grandi vantaggi, ma il processo avviato negli anni 90 aveva certamente molti elementi ambiziosi, soprattutto perché si è voluto mettere, come si dice comunemente, il carro davanti ai buoi, il carro della moneta davanti ai buoi dell'economia e della politica. In pratica, si è avviata la moneta unica con la speranza, anzi con il proposito, di avviare una sempre più stretta strategia comune sul campo delle politiche economiche e soprattutto fiscali. Così non è stato. E la crisi del 2009, con la brusca frenata di tutte le economie, ha reso più evidenti le debolezze di alcuni paesi, come appunto la Grecia o il Portogallo. Caro Fabrizio, quella che lei chiama la nostra Italietta si sta in verità comportando molto bene, nonostante l'eredità dell'alto debito pubblico. E anche l'Italia parteciperà alla cordata di salvataggio della Grecia. Forse è il caso di rivedere certi vecchi luoghi comuni sul nostro paese. Cara Radio 24, giovedì mattina ho ascoltato la risposta del direttore a quella lettera sull'incidente stradale. Prima ne avevo ascoltata un'altra dove un padre reclamava vendetta per il figlio ucciso da un camionista che, per un colpo di sonno, aveva invaso la corsia opposta in autostrada. Ma cosa avrebbe dovuto fare quel padre? Perdonare, forse? Sono già in troppi a perdonare. Il Parlamento e la magistratura, e sa perché? Prendono troppi soldi. La certezza della pena viene sbraitata dai politici in ogni trasmissione televisiva nella quale si affronta l'argomento. E anche lei, direttore, parla di educazione, della scuola, del buon esempio. Io sono un pensionato settantenne di basso livello. Ma ricordo che una volta in chiesa i padroni avevano le panche in prima fila con i propri nomi stampati sopra. Fino a poco tempo fa, certe famiglie benestanti andavano a messa con le pellicce e all'uscita della chiesa facevano le sfilate di moda a dispetto di quei poveri che mesti mesti se ne tornavano a casa. Ma così era e così sarà sempre, finché non arriverà uno come San Giovanni a puntare il dito e dire «Ladri e impostori, vergognatevi!» Vittorio. Ho ascoltato le due lettere che parlavano di morte sui selciati dovute anche all'alcol. Io sono padre di un bimbo di 8 anni e anni fa mi è stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza, quindi conosco bene 2 dei temi trattati e spero di non dover mai conoscere il terzo. Devo dire innanzitutto che sto ancora cercando quel poliziotto che mi ha ritirato la patente per ringraziarlo e dirgli che da quel giorno bevo solo acqua. Certo, la mia è stata una scelta personale, ma quei mesi a piedi mi hanno fatto pensare e mi hanno aperto gli occhi. Il problema non è lo scarso numero di posti di blocco. Il vero problema è la mancanza del rispetto per se stessi e per gli altri e la troppa facilità con cui vengono venduti gli alcolici stessi. una parte della responsabilità per gli incidenti dovrebbe andare all'ultimo gestore che ha venduto alcolici all'automobilista ubriaco. E poi ci vorrebbero visite periodiche e strutturate alle corsie degli ospedali che trattano malattie croniche dovute all'alcol e incontri con ragazzi e ragazze che non saranno mai più gli stessi grazie a una bevuta di troppo. La questione alcol è sottovalutata da tutti, famiglie in primis, e non è giusto buttare tutto il peso sulla polizia e sui posti di blocco, anche perché loro possono solo ritirarti la patente, ma per far capire che la vita è una sola, è compito dei genitori. Rudy. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.